Radio Plaza, sigla! Thank you. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Plaza. È una puntata specialissima. Specialissima. Radio Plaza oggi partecipa alla quarta edizione del Festival delle Cucine in Movimento, la quarta edizione qui a Napoli, dopo Bologna, Roma, Pesaro. Oggi parleremo appunto di quello che è stato il festival, questi tre giorni di Cucina in Movimento, venerdì con l'accoglienza delle cucine e la cena popolare, sabato con i tavoli di discussione, l'assemblea e lo spettacolo. E domenica oggi qui ancora a Santa Fede Liberata, che ci ha ospitato perché fuori piove. Radio Plaza è una radio all'improvviso. All'improvviso e improvvisata? All'improvviso. Bene, e la puntata quindi si svolgerà appunto con la presentazione di quello che sono stati questi giorni. Ricordiamo che, così come ci dicono loro, il Festival delle Cucine in Movimento vuole essere un luogo di confronto e di conflitto. Ma loro chi? Loro, quelli del festival. Quelli del festival. Quelli loro. Grazie a tutti per averci ospitato in questo momento, anche in questo momento. Siamo collegati direttamente con i vostri cuori. Sì, ci siamo, quindi parte la puntata, parte con, è partita già con la sigla, i Black Market Weather Report, e ora adesso invece c'è Saia Saia di Pino Daniele dall'album Terra Mia del 1977. E si capisce, va bene, o si nota foot. Radio all'improvviso, Radio Plaza, e all'improvviso su Pino Daniele la pioggia si ferma. Smette la di piovere. Si ferma. Grazie Pino. Ma quando mai piove a Napoli? E invece vedi, in questi giorni un po' di pioggia, ma il festival ha continuato. Ricordiamo che le giornate insomma si sono tenute qui a Santa Fede Liberata, ma nell'organizzazione, nel sostegno al festival, c'è stato insomma l'aiuto di Giardino Liberato. Giardino Liberato che oggi qui ai tavoli di Radio Plaza ospita Silvana, che è una di quelle pazzoidi che si sono inventate, diciamo così, la liberazione dei giardini e degli spazi abbandonati o comunque, diciamo così, negati alla città. Questo concetto della liberazione degli spazi a noi interessa moltissimo, quindi interessa moltissimo significa che non ne sappiamo nulla e ecco perché lo chiediamo a chi in qualche modo è protagonista attivo e fattivo riguardo appunto a questa operazione che è molto interessante, diffusa un po' in tutto il mondo. E quello che ci interessa sapere quali è, come si è arrivati poi alla liberazione del giardino, quali sono le attività che propone questa, questo spazio liberato e soprattutto qual è la ricaduta sociale o la risposta. La risposta del territorio, cosa succede dentro e fuori a Giardino Liberato. Innanzitutto voglio ringraziare, vi voglio ringraziare e voglio ringraziare i compagni delle cucine in movimento. E ci vogliamo fare un applauso a questi compagni delle cucine in movimento. Direi proprio di sì, appunto, direi proprio di sì, perché se lo meritano, perché tra l'altro hanno dovuto rimediare all'improvviso causa pioggia che veramente ci sta tartassando. Noi abbiamo dovuto rimandare la nostra festa, la nona festa del Friariello, perché l'unico fascio che ci piace è il fascio di Friarielli. Napoli è una città che ci sorprende continuamente. Assolutamente, decisamente sì. E purtroppo abbiamo dovuto rimandare noi, hanno dovuto spostare loro all'improvviso ieri sera in uno spazio, anche questo uno spazio che è un bene comune. E ci dispiace moltissimo per la pioggia, perché ci faceva piacere farvi conoscere al territorio, al nostro territorio, il territorio sul quale il Giardino Liberato di Mater Dei incide e lavora. Che cos'è il Giardino Liberato di Mater Dei, cos'è Santa Fede, che cos'è l'asilo di Dopola, non faccio ormai, dai primi 7 iniziali siamo arrivati a 10-11 realtà di persone che hanno pensato che spazi che erano abbandonati dovevano essere occupati e ridati alla collettività, ridati alle persone, così come l'aria, l'acqua, tutti quelli che sono considerati beni comuni. Con una bella battaglia, dopo aver occupato, siamo riusciti a far definire questi luoghi dei beni comuni. Cosa sono i beni comuni? I beni comuni sono degli spazi, in questo caso parliamo di beni comuni, che sono dei luoghi, ex conventi, ex luoghi, ex strutture, lasciate così all'abbandono, all'incuria. Parliamo di strutture pubbliche? Parliamo di strutture pubbliche, o sì, fondamentalmente private. Sì. No, quelli che sono definiti beni comuni. La battaglia è stata fatta proprio con le realtà, le istituzioni, perché venisse riconosciuto proprio sulla base di quello che aveva detto la Commissione Rodotà questa definizione. Cioè non sono luoghi che appartengono a nessuno, a nessun privato soprattutto, noi siamo contro la privatizzazione soprattutto di questi spazi, e sono dei luoghi che sono considerati di tutti, il che non significa che ognuno ci fa quello che vuole, ma che c'è un progetto che si rinnova continuamente, che si cambia continuamente, che si adatta continuamente alle situazioni territoriali, locali e a quello che poi è la volontà delle persone che riempiono questi luoghi e che li fanno diventare nuovamente vivi. Cioè questi luoghi hanno un uso sociale e noi proprio per questo facciamo una serie di attività. È quello che dicevi tu col territorio, siamo collegati. Quindi cosa succede nel territorio e qual è la risposta? Cosa vi ritorna all'interno quando voi uscite fuori? Il rapporto tra il dentro e il fuori, come hai detto tu, è un rapporto estremamente stimolante innanzitutto per chi sta dentro, ma anche per chi sta fuori. E c'è una relazione continua, proprio perché non sopportiamo l'idea di stare chiusi all'interno di quattro mura, ma la nostra idea è proprio un'idea di lotta politica, cioè quella di fare in modo che le persone, da un atteggiamento di disfattismo, di impotenza, di pigrizia, ritornino a sentirsi in qualche maniera protagonisti delle cose che fanno. Noi decidiamo tutto in un'assemblea periodica, 2 volte al mese, e all'assemblea partecipano tutti quelli che ci vogliono partecipare facendo proposte. Non andiamo mai a votazione, non ci piace il metodo della votazione, allora no, perché rigettiamo proprio l'idea della delega, e chiunque viene ha la possibilità di proporre. Se l'assemblea è d'accordo, il progetto, l'idea viene sostenuta e va avanti, se non si è d'accordo si blocca e se ne discute poi successivamente. Poi ci stanno i NI che non sono stativi, cioè è una formula con la quale, che fa parte delle tecniche del consenso, diciamo, e che è una formula con la quale non si crea opposizione laddove c'è qualcuno che però non è favorevole a portare avanti quel progetto, però non si firma il progetto. Il rapporto col quartiere è interessante, molto interessante, è complicato. Ricordiamo qual è il quartiere. Il quartiere è quello di Mater Dei, che stamattina avrebbe dovuto ospitare le cucine in movimento, proprio perché ci faceva piacere in questa condivisione del progetto politico delle cucine in movimento. Posso fare una minaccia? Ci saremo la prossima volta. Decisamente. Ah, sicuramente. No, ma anche perché proprio la condivisione del progetto politico delle cucine in movimento è una cosa che volevamo anche portare fuori dalle mura del giardino e portare fuori anche dai tre giorni che ci sono stati qui, cioè fare conoscere che esistono delle realtà altre di persone che credono soprattutto nella possibilità di un cambiamento veramente dal basso di partecipazione. E allora perfetto, vi verremo a trovare, ci saremo noi magari con Radio Plaza, ritorneranno magari, perché no, le cucine, anche se ci dobbiamo muovere, sono in movimento, quindi la prossima volta saranno altrove, credo, poi ne parleremo, magari se c'è già un'organizzazione vedremo. E quando si parla di movimento in Italia ritornano gli anni 70 e quindi ritorna. La mente, la musica quella di Fabrizio De André. Ritorna al ballo mascherato da Storia di un impiegato del 1973. 73. Radio Plaza. Drogato da troppe sconfitte, cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità di un eventuale premio della bontà. Maria, ignorata da un Edipo ormai scaltro, mima una sua nostalgia di natività. Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società, al ballo mascherato della celebrità. Dante alla porta di Paolo e Francesca, spia chi fa meglio di lui. Lì dietro si racconta un amore normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo, sorpresa sulla porta d'una felicità, la bomba ha risparmiato la normalità, al ballo mascherato della celebrità. Non ha una natura gentile, ma spinta da imparzialità, sconvolge l'improbabile intimità di un'apparente statua della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà. Sono più bella io o la statua della pietà, dopo il ballo mascherato della celebrità. Nelson, strappato al suo carnevale, rincorre la sua identità e cerca la sua maschera, l'orgoglio, lo stile, impegnati sempre a vincere, mai a morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella sua agonia sparsa di qua di là implora una Santa Elena anche in comproprietà al ballo mascherato della celebrità. Padre pretende aspirina ed affetto e inciampa nella sua autorità, affida a una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità, il martirio è il suo mestiere, la sua vanità. Ma ora accetta di morire soltanto a metà, la sua parte ancora viva le fa tanta pietà, al ballo mascherato della celebrità. Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti, stupirmi della loro fragilità. E adesso puoi togliermi i piedi dal collo, amico che m'hai insegnato il come si fa, se no ti porto indietro di qualche minuto, ti metto a conversare, ti ci metto seduto tra Nelson e la statua della pietà, al ballo mascherato della celebrità. Ecco, ce l'aveva detto nel 73 Fabrizio De André, ma nessuno si è fidato evidentemente, perché ancora oggi li vediamo gironzolare tra i parlamenti, nelle commissioni, che si abbuffano di nomine e di elezioni. Sì, partecipano ancora a questi balli mascherati, insomma, però noi benissimo. continuiamo con la puntata sono di fuori oggi tema, della radio. Diciamo. Sì, eri un po' fuori tema, noi però sono prima di tema. Entrare... Ma no, io, loro sono fuori loro tema. Loro sono da sempre fuori tema, tu anche qualche volta. Sì. Prima di entrare proprio nello specifico dei temi trattati ai quattro tavoli, facciamo un giochino insieme a Silvana che ha appena parlato con noi, a Tiziano, Ilaria, Raffaele, Gianluca e magari insomma aiutate se servono suggerimenti. E chiunque voglia partecipare, perché è possibile anche partecipare all'improvviso. Ah, così, sì, infatti, magari arriva qualcosa da fuori. Magari arriva qualcosa da mangiare. E voglia, ce n'è da mangiare. E diciamo, il giochino è un po' sulla stagionalità, quindi cosa si semina e cosa si raccoglie. Ovviamente un po' in generale, senza andare troppo nello specifico sui vari territori e le diversità. Quindi chiediamo ad ognuno di voi di pescare un fogliettino di questi presenti sul tavolo. Ci facciamo un fatto tra di noi, ecco, senza sì, pubblico. Sì, no, così, perché, sì, appunto, una cosa. Tiziano, allunga la mano. E poi ognuno di voi magari legge quello che insomma gli è venuto e cerchiamo di capire se questa cosa si semina o si raccoglie in questo periodo. Con chi vogliamo iniziare? Chi vuole cominciare? Nessuno. Li vedo tutti, nessuno, diciamo, un po'. O non capiscono la scrittura. Vai Silvana, comincia. Vediamo Silvana. Allora, qui c'è scritto: meglio un acrobata su un filo imbilico o sulla pizza una foglia di basilico. Basilico. Mi pare perfetto, evidente. Il basilico. Si semina o si raccoglie a maggio? Non si semina né si raccoglie a maggio, si semina prima di maggio. In generale, Silvana, senza andare troppo nello specifico, dicevamo. Si semina si prima. Raccoglie di più a maggio che non si semina, è tardi maggio. Si no? Semina e si raccoglie, quindi. E allora questo qui è il jolly, questo è il jolly. È un jolly, va bene. Basilico è un jolly. Passo. Usiamolo continuamente. Avete bisogno di suggerimenti? Suggerimenti? Per leggere sicuramente. Suggerimenti? Ci sei? Io ci sono. Vai. Chi è che risponde? Allora io ci sono. Gianluca. Questa è l'ora della siesta e ti crogioli, aspettando la tua zuppa di... Ma di quello che ci sta, non è che... Il... Purtroppo, vivessimo normalmente, aspettassimo la stagionalità, adesso magari ci stanno zucchine, forse fiori di zucca, non so se si può fare la zuppa però. Io posso fare un suggerimento, Gianluca, perché nello sviluppo della domanda c'è anche una risposta. Crogioli e fagioli. Eccolo lì, si è capito, dai. Il gioco comincia a capirsi. Ok. Bene. Quindi a maggio si semina o si raccoglie il fagiolo? Chi è che me lo vuole dire? Si semina con molto ritardo, si dovrebbe sapere. Si semina un po' in ritardo. Si semina con ritardo. Poi ci siamo? Raffaele. Ciao ragazzi. Ciao. Forse perché ad Oliva non diede mai mille baci, si rassegnò con i suoi barattoli di spinaci. Però mi hanno aiutato, mi hanno dato una grande mano. Era lui chi? Tu senza microfono, era lui. Era lui, era braccio di ferro. Non avevo proprio capito niente. Neanche lui. Bene. Siamo agli spinaci. Si raccolgono. Siamo d'accordo. Si raccolgono gli spinaci a maggio. Qua c'è scritto: Olivia, non gli dite mai bacio e gli date gli spinaci. Poi ci siete? Ilaria. Allora, io non mangio né il vitello né la trota e aspetto che mi cresca la carota. La carota. Lei ha vinto, eh. Era quella un po' più difficile la tua. E si raccoglie. Si raccoglie, noi non lo sappiamo, infatti ce ne sono tantissime, anche siamo oggi qui presenti a Santa Fe. E ci manca quindi quella di Tiziano. Forse Ulisse in mezzo al mare naufrago. Vai. Vediamo. Forse Ulisse in mezzo al mare naufrago si saziò con la punta di un asparago. Buona l'asparago. La più difficile. Non so, tra la carota e questa, non lo so. Bene, grazie per aver partecipato a questo giochino. Era un po' per mettere l'attenzione su quello che ci diceva anche Gianluca, la questione della stagionalità dei prodotti. Credo che ne parleremo ancora al tavolo, immagino. E proprio quello si diceva, insomma, è diventato un po' difficile seguire la stagionalità. In generale sì, c'è la stagionalità. Sappiamo che ormai andando nelle grandi distribuzioni, supermercati, non esiste più stagionalità. Si danno prodotti che sono il pomodoro a dicembre, che viene da chissà dove, assolutamente. Però comunque la stagionalità rimane, non è che siccome la grande distribuzione si dà tutto, non esiste la stagionalità. Bisogna avere coscienza di essere consapevoli che se si prende un pomodoro in dicembre, occhio mio, stai facendo fare milioni di chilometri a un povero pomodoro che poteva mangiarselo un sudamericano. Benissimo. Perfetto, grazie. Gianluca mille. Era quello della zuppa di fagioli, giusto? Era lui. E allora presento io questo, il prossimo brano, che è degli Schiantos, dal singolo Fagioli, mi piacciono le sbarbine del 1980. Ci ascoltiamo Fagioli degli Schiantos. Questa è Radio Plaza e applausi a voi. I'm not afraid. Plaza qui a Santa Fede Liberata. A proposito di Santa Fede Liberata, ringraziamo Santa Fede Liberata per aver aperto il porto. Grazie, grazie per averci accolti sotto tolti dalla pioggia. Averci accolto sotto i vostri portici. Abbiamo aperto porti, porte e portici a Radio Plaza e a tutta l'organizzazione delle cucine in movimento qui a Napoli. Finalmente, direi, finalmente. Finalmente le cucine in movimento a Napoli. Finalmente le cucine in movimento a Napoli. Ospitiamo qui a Radio Plaza in questo preciso momento e non in altri, questo è meglio chiarirlo, e non in altri, Ilaria che viene apposta da Bologna per poter Ciao. Partecipare a questa mega organizzazione funzionalissima. E lei ha partecipato a uno dei tavoli tematici sì, di cui parlavamo ieri prima. Pomeriggio ci sono stati i tavoli di discussione su vari argomenti. C'era l'organizzazione della filiera tra sostenibilità economica e condivisione politica, l'organizzazione delle cucine in movimento tra emergenze e contesti di lotta, la turistificazione della città e sviluppo del settore della ristorazione. L'hanno fatta difficile per farmi sbagliare, lo so. È molto più difficile. E invece Ilaria ci racconta cosa è venuto fuori dal dibattito, dal tavolo dell'antispecismo, corpi, ecologia politica. Benvenuta. Male. Buon divertimento, Ciao. Direi. Allora, intanto il tavolo è partito constatando un po' l'enorme differenza tra le nostre esperienze, perché andiamo da cucine come quella di cui faccio parte a Bologna, Eat the Rich, completamente antispeciste, che cuciniamo solo senza nessun prodotto di derivazione animale, e fino a cucine che invece fanno un po' di tutto. Detto questo, visto che non vogliamo sovradeterminare nessuno, né ci interessa fare un manuale del buon antispecista, abbiamo deciso di trovare insomma un punto comune su che cosa ci interessava di questo argomento, e abbiamo voluto trovare il centro focale insomma su farne un discorso non incentrato sull'empatia, e quanto su una rottura di rapporti di potere. E sempre più chiaro, No, dico, diciamo che vorrei una definizione semplice di antispecismo. Semplice. Vabbè, appunto, si tratta di cioè andare a rompere tutte quei rapporti di potere che secondo diciamo come siamo abituati a pensare la natura delle cose sono fermi e mutabili, quando invece non è così, perché c'è qualcuno che ha il potere su altri. Esatto, noi ci pensiamo insomma al di sopra di tutte le altre creature in qualche modo, noi umani, dico. Umanoidi, esatto, eccoli là, quelli sono. E questo è il problema centrale, diciamo. E quindi Per questo è importante parlare di più di questo argomento negli spazi e soprattutto parlare più di antispecismo e meno di veganesimo, anche per distinguerci dal discorso che adesso sta dilagando sul greenwashing, che utilizza comunque tutta una serie di vocaboli in altri contesti e li trasfigura. Quindi per riuscire a identificarci tra realtà che comunque cucinano dentro gli spazi e fanno movimento, probabilmente questo sarebbe una buona tecnica, insomma. Quindi essere chiari, sì. Essere chiari con gli altri rispetto a chi siamo e esatto. Cosa vogliamo. Perché in pratica per rompere comunque questi rapporti di potere che ci incatenano è importante, secondo quello che è emerso dal tavolo, un ritorno alle origini, ai piatti poveri della nostra tradizione e anche farci contaminare da conoscenze estranee, insomma, e anche sperimentare in cucina con anche magari ricette che vengono da altre culture, per esempio. E per fare ciò, quindi, bisogna ritornare nelle cucine e soprattutto condividere il più possibile saperi, perché comunque si stanno molto perdendo tutta una serie di conoscenze, perché siamo ormai abituati ad avere il prodotto pronto, finito al supermercato, e quindi tutta una serie di passaggi che magari prima si facevano anche in casa quando si cucinava, eccetera, noi siamo abituati proprio a skipparli, a non farli. Quindi, insomma, proprio per questo motivo, proprio perché la gente, insomma, non sa, non conosce più tutte queste tecniche che una volta erano di uso comune, e anche tra di noi abbiamo riscontrato un po' questo problema di riuscire a reperire le conoscenze, e abbiamo deciso di utilizzare la mailing list che comunque già esisteva di questo tavolo per scambiarci delle ricette, delle tecniche di cucina comunque che utilizziamo magari nelle nostre città, dentro le nostre cucine, tutto ovviamente senza l'utilizzo di prodotti animali, per riuscire a contaminarci anche tra di noi e trovare cose nuove, percorsi nuovi. Questa è la proposta verso l'interno, quindi mi pare di capire, sì. Verso le persone che hanno partecipato, esatto. Al tavolo. È venuta fuori anche una proposta verso l'esterno o al momento si resta in una fase di... Beh, visto che appunto... questa gente, noi come glielo diciamo? Visto che appunto non tutti fanno un discorso incentrato sull'antispecismo, magari però sarebbe carino riuscire a trovare dei momenti di discussione, anche magari se non si è proprio una cucina esclusivamente antispecista, riuscire a farlo un po' emergere come discorso, e abbiamo riscontrato che magari i momenti migliori per fare ciò sono i momenti, per esempio, non lo so, in cui bisogna fare dei benefit o dei momenti di cucina più emergenziale, che quindi si ha bisogno di avere più cibo per più persone, e cucinare comunque sia senza prodotti di derivazione animale ti permette di riuscire a lavorare meno per avere molto più cibo e poter sfamare più gente. Quindi se c'è per esempio uno sgombero, una situazione del genere, sicuramente magari è il momento migliore in cui sfruttare questo tipo di cucina e quindi far magari anche passare tutta una serie di discorsi. Perfetto, grazie mille, grazie. Quindi dal tavolo dell'antispecismo sono venute fuori già delle proposte che sicuramente poi seguiranno, e magari la prossima volta ci racconterete come si va avanti. Esattamente, grazie. Noi bene, ci ascoltiamo Funk 49 della James Gang Rides Again è il titolo dell'album. Ritorniamo agli anni 70, questi sono gli anni 70, 1971, buon ascolto, questa è Radio Plaza! We'll be right back. si sfuma. Si sfuma. Bentornati a Santa Fe Libera. Santa Fede Liberata. Santa Fede Liberata, Santa Fe Libera, mi piace. Santa Fe da un po' di, sì. Però. Bene. Restiamo abitanti delle nostre città, occupiamo gli spazi abbandonati e lasciati al degrado, ridiamo, facciamoli vita. Rivivere finalmente e proponiamo, diciamo, esperienze nuove e innovative e alternative a quello invece che c'è intorno. Cosa c'è intorno? Intorno c'è tutto un mondo che parte dalle origini, no? Anche al cibo si legano un sacco di leggende sulle origini del cibo. La sai quella del riso? Conosci? Una leggenda sul riso. Eh sì, dai. Pare che moltissimo tempo fa, di fronte ad un'ennesima carestia, il buon genio della campagna, disperato perché non sapeva come sfamare il suo popolo, si strappò i denti e li gettò al vento. I denti finirono in una palude dove si trasformarono in semi che diventarono tante piantine verdi, i cui frutti, tolta la buccia, erano migliaia di chicchi di riso che per la loro brillante bianchezza ricordavano i denti dello spirito benefico. E questa è una leggenda che viene dalla lontana Cina. Cina, molto attuale come tema, sì. No? Quello dei cinesi. E non solo. E cosa? Anche altro, diciamo, possiamo parlare per esempio dell'origine del pancarré. Ah, io l'origine del pancarré è divertentissima. Dai. Quella dell'origine del pancarré. Sì, perché pare che in molte culture, anche in quella napoletana, diciamo, piazzare il pane capovolto sembra sia diciamo una portatrice di malaugurio, segno di malaugurio. Ebbene, questa diceria, perché diciamo la verità, è una diceria. Questa diceria risale addirittura all'Ottocento, quando è legata praticamente a questo episodio, quando erano ancora attivi i boia, quelli che tagliavano le teste alle persone o comunque che ammazzavano indiscriminatamente. Ebbene, questi venivano sbeffeggiati continuamente dalle persone dei paesucoli e delle città, diciamo, di quel soprattutto di quel dai periodo. Fornai, no? I fornai. Soprattutto dai fornai, i quali, quando consegnavano il pane al boia o a questi boia, glielo consegnavano appunto capovolto. Questa cosa, diciamo, offendeva molto queste persone, le quali andarono a chiedere, diciamo, ai governanti, ai loro padroni maledetti, di appunto imporre ai fornai di dare il pane a tutti allo stesso modo, senza nessuna discriminazione di categoria. Ed ecco che subito uscì una legge, no? Per evitare che questo succedesse. Uscì questa legge che il pane non poteva essere consegnato in modo capovolto. Bene, i fornai cosa si inventarono per aggirare le leggi? Si inventarono un pezzo di pane che aveva una forma quadrata, più o meno quadrata, uguale da entrambe le parti, e quindi ecco che con questo stratagemma nacque appunto il pancarré, che ha questa forma a mattone, diciamo così, a bauletto. E quindi continuarono a sbeffeggiare i boia, continuarono a consegnarglieli sotto sopra, fanculo loro. E quindi evviva la fantasia anche di chi si opera e si adopera con il cibo, no? Molto bene, sì, sì. Ce ne sarebbero tantissime altre di leggende, di tradizioni, di usi locali legati al cibo. Ce n'è uno legato agli spaghetti, che a noi sono dai, molto... Dai, c'è, diciamo, c'è sono, quella degli spaghetti della lunga vita, la conosci? Sì, dai, no, non la conosco, no, voglio sentirla. La vuoi sentire? Voglio sentirla. Allora, gli spaghetti lunghissimi, sempre dalla lontana Cina, al compleanno si mangiano interi, senza spezzarli né con i denti né con le forchette, altrimenti... La vita si accorcia. Attenzione, e quindi non si tagliano gli spaghetti. Attenzione a spezzare gli spaghetti, perché diciamo il problema potrebbe ritrovarsi dopo qualche tempo. Bene, da questo momento in poi, cioè da adesso, ci ascoltiamo un brano. Sì, ascoltiamo Danzato da Solidao di Beth Caravaggio, dall'album Ao Vivo No Olimpia del 1991. Radio Plaza! Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca. Abbiate pazienza. Sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração. designado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da sua. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Quando chega a madrugada, meu pensamento vagueia, corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura, quem beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Qui in diretta, anzi all'improvviso, immediatamente, siamo noi che parliamo e parliamo con tutti, tutti i protagonisti di questa grandissima organizzazione. No, di questi ultimi tre giorni in cui appunto si è sviluppato questo Festival delle Cucine in Movimento, o Movimento delle Cucine in Festival. Bella, Movimento anche questa, delle Cucine, sì, in Festival, sì, mi piace. Torniamo ai tavoli, siamo partiti da quello dell'antispecismo, corpi, ecologia politica, arriviamo mica al tavolo semplice, quello tavolo era con, ma secondo me dopo è un ancora di più tosto, quello aspetta lì. Perché secondo me corpo, qua ecologia e politica continua, perché poi ce n'è ancora. Intanto ci ascoltiamo, insomma, quello che è venuto fuori, grazie a Tiziano che ci racconta cosa è venuto fuori dal tavolo dell'organizzazione Filiera tra sostenibilità economica e condivisione politica. Ciao a tutti. Benvenuto Tiziano. Grazie, ciao, sono benvenuto Tiziano da Roma e vi riporto un po' quelli che sono stati gli argomenti del nostro tavolo. In particolar modo siamo partiti dalla considerazione che il rapporto che ogni individuo ha con il cibo è totale. Tante volte ci ritroviamo a ragionare per distinzioni di categoria, ci individuiamo come consumatori, come trasformatori che trasformano il cibo e lo rendono disponibile dentro le cucine, o come produttori, che per esempio è il lavoro mio. Questa considerazione, che parte da una differenziazione iniziale, in realtà l'abbiamo messa in discussione. L'abbiamo messa in discussione perché tutti quanti nel corso della nostra giornata e più in generale nella nostra vita attraversiamo tutti questi ruoli, tutti quanti cuciniamo, tutti quanti consumiamo il cibo, tutti quanti facciamo delle piccole autoproduzioni, e un pochino abbiamo trovato sminuente questa definizione per categoria, perché in qualche modo va a ridimensionare quello che è il nostro rapporto. Volevamo sottolineare come quindi le rivendicazioni che possiamo fare attraverso il cibo e sul cibo come strumento di lotta debbano essere sempre collettive, perché tutti quanti attraversiamo tutti questi ruoli e ci appartengono a tutti quanti allo stesso modo. Le rivendicazioni che abbiamo individuato sono legate alla possibilità di reperire del cibo sano, quindi di averlo accessibile al giusto prezzo, non come avviene oggi nei supermercati della grande distribuzione organizzata, la possibilità di autoprodurlo, sui quali è stato legiferato in abbondanza limitando la possibilità di fare le autoproduzioni, che fino a pochissimi anni fa, diciamo, era una delle attività principali che venivano svolte durante le abitazioni, dentro le abitazioni, e oggi il cibo siamo obbligati necessariamente a comprarlo. È un po' cambiato, c'è una mercificazione del cibo più in generale, quindi il cibo è stato ridimensionato, è un bene di vendita e in quanto tale innesca delle dinamiche perverse, tipiche del mondo capitalista, dove si va a vendere qualche cosa con i meccanismi che sono quelli del commercio e non sono meccanismi sani. E ugualmente la possibilità di trasformare il cibo e di avere accesso a un cibo trasformato sano al giusto prezzo, soprattutto nelle cucine popolari. E la situazione legata alla turistificazione di cui parlavi tu prima è legata a un altro tavolo di cui poi ci sarà un altro report. In realtà è una situazione che riguarda tutte le città, soprattutto le grandi città che stanno in Italia, insomma ne possiamo parlare a Napoli, dove esistono tantissimi fenomeni legati alle boutique del cibo, dovunque è possibile reperire cibo. Lo stesso succede a Roma, sono attività che aprono e che chiudono molto velocemente, e che non hanno una sostenibilità, portano sfruttamento dei lavori, lavorano con materie prime che per abbassare i prezzi necessariamente non sono di qualità, derivano da circuiti commerciali che non tutelano innanzitutto l'ambiente, non tutelano i lavoratori, non tutelano chi consuma questo cibo, perché di fatto fa male. Inoltre, ripeto, il riferimento è sempre alla grande distribuzione organizzata, nei confronti della quale oggi facciamo tutti un passaggio, cioè è facilissimo entrare al supermercato, è diventato difficilissimo farne a meno. Il ragazzo di Padova prima che è intervenuto, insomma, ci ha un po' introdotto a questo grande argomento, che è un argomento di lotta. La critica più seria che stiamo facendo adesso è alla grande distribuzione organizzata. Le cucine popolari rappresentano per noi un presidio resistente dal basso, in opposizione ai fenomeni di turistificazione e di commercializzazione del cibo, e per cui l'invito che facciamo è innanzitutto di frequentarle, ma di parteciparle soprattutto, perché tutti dobbiamo essere parte attiva in funzione di quello che spiegavo prima, che abbiamo questo rapporto totale col cibo, dobbiamo essere parte attiva di questo meccanismo. Come Cucina in Movimento non vogliamo erogare in servizio, perché erogare un servizio significa in qualche modo creare una separazione alla genesi tra chi eroga il servizio e l'utente del servizio. Vogliamo in realtà essere una realtà che è includente e partecipata. Vogliamo che le persone, siano esse produttori, siano esse consumatori, siano trasformatori, facciano parte di questo meccanismo, ne siano parte integrante, e in questo senso le rivendicazioni che possiamo fare sul cibo e attraverso il cibo debbono essere necessariamente collettive. Non si può delegare le rivendicazioni sul cibo ai soliti addetti ai lavori. L'autodeterminazione alimentare non è una prerogativa di chi produce cibo, non è una prerogativa di chi trasforma cibo, è una prerogativa anche di chi questo cibo lo deve reperire e lo deve avere accessibile. E l'invito è questo. Nello specifico abbiamo individuato alcune strategie che vorremmo adottare attraverso le cucine popolari nel prossimo anno, o comunque a partire da questo festival, che è stato molto importante, ci ha dato un sacco di spunti. L'invito che ci siamo fatti innanzitutto all'interno delle nostre cucine è di adottare un prezzo narrante e la garanzia partecipata. Per prezzo narrante intendo la storia del prodotto, da dove arriva la materia prima, chi l'ha prodotto, cosa c'è dietro effettivamente. E la garanzia partecipata è quel meccanismo, noi a Roma lo chiamiamo così, per cui c'è un rapporto partecipato col produttore che fa da garanzia senza certificati. Non ci serve l'etichetta di biologico, che è anche questa frutta di un meccanismo commerciale, un meccanismo mangia soldi, ma partecipare alle attività è la prima forma di garanzia che possiamo adottare. Ritornare alle autoproduzioni è un invito che ci siamo fatti. Questi spazi possono accogliere dei piccoli processi di autoproduzione, fare la passata dei pomodori insieme, fare il pane insieme. farlo con le farine che conosciamo dei nostri produttori. Oggi c'è stato uno stupendo laboratorio di panificazione qui al Santa Fede Liberata, ci sono state date un sacco di informazioni e l'invito insomma è a riproporre questi laboratori dappertutto per metterci tutti quanti a conoscenza e per cominciare a praticare, a sostanziare con la pratica quelli che sono altrimenti soltanto dei discorsi vuoti. La possibilità di avere degli spacci che possano rendere il cibo accessibile e la possibilità di stare anche al di fuori di questi spazi, portare le nostre cucine sulle vie, sulle piazze, riappropriarci di questi territori che sono i nostri territori e liberare le città oltre che gli spazi, riappropriarci dei nostri spazi. Quindi tantissimi, beh, sono usciti fuori dal tavolo tantissime idee, tantissime cose da fare, quindi ci sarà da lavorare dopo questi incontri. Ci sarà da lavorare tutti insieme. Perfetto, questo quindi è insomma quello che viene fuori, la partecipazione, la compartecipazione, la necessità di fare insieme. Noi siamo d'accordo. Assolutamente. Noi siamo d'accordo a partecipare senza lavorare. Mi sento? No, noi molto... ti sentiamo, quindi abbiamo anche bene. Un po' paura di quello che stai per dire. No, vediamo. No, io volevo ringraziare Tiziano, diciamo, per appunto per le sue parole, interessantissimo. Lui fa parte delle cucine in movimento di Roma. Tiziano ci teneva anche a raccontare, insomma, che si parlasse un po' di quello che sta succedendo a Roma, questa campagna mediatica contro la questione cioè, sugli sfratti, legata agli sfratti. E velocemente leggo dei passaggi da uno dei, insomma, da un documento che ha prodotto Cucina in Movimento. È un contributo che abbiamo elaborato adesso in risposta a degli articoli che sono articoli diffamatori che sono usciti sul Messaggero. Ci siamo sentiti di redigere questo contributo. Perfetto, più o meno brevemente, perdonaci per la brevità, il cibo come atto politico a sostegno delle lotte sociali e della socialità. Quindi quello delle Cucine di Movimento di Roma è un documento insomma importante, perché le occupazioni abitative e gli spazi sociali occupati e gestiti di Roma non vengano visti come qualcosa dove ci sia un divertimento fuori legge, oppure siete stati nominati imprenditori della notte, no? Quello che interessa invece è avere una narrazione reale su quello che succede veramente in quegli spazi. E quindi la proposta di Cucina in Movimento di Roma, insomma, era un po' quello che diceva già Tiziano sull'utilizzo di prodotti alimentari provenienti da piccoli produttori locali, con i quali vengono instaurati rapporti di fiducia basati sulla garanzia partecipata, prodotti di stagione, chilometro zero, l'utilizzo delle cucine come se fossero quelle di casa, senza né dipendenti né padroni. Non è una proposta, è quello che già facciamo. Perfetto. C'è stato detto che facciamo diversamente, che lucriamo sul cibo, non è la verità. Perfetto, e quindi appunto insomma conclude più o meno il documento che ho qui davanti dicendo: ricchi non lo saremo mai, per una ragione politica estremamente chiara. Sostenere le osterie popolari significa sostenere un lavoro costante e scivoloso, fortemente anticapitalista, fuori da qualsiasi logica di sfruttamento dei lavoratori, cosa che invece succede nel campo della ristorazione. E ringraziamo Tiziano per l'intervento al tavolo, per averci portato questo documento, per averci portato il resoconto dal tavolo a cui ha partecipato. Grazie a voi. Lauren Neal con To Zion su Radio Plaza, grazie a tutti. One day I'm gonna understand. Zion. My belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But but instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Surely come, see life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through unto life to be a beautiful reflection of His grace. See, I know that a gift so great is only one God could create. And I'm reminded every time I see your face that the mangiando, ma io ho una fame esagerata, ma dove no, mi vuoi portare a mangiare? Mangio con gusto. Sì, però voglio mangiare anch'io, ya, portami a mangiare qualcosa. Io mangio, allora, a me piace mangiare cinese. Ma che fa gusto cinese, ya, mangiamo qualcosa di serio. La cucina cinese c'è una andiamo a mangiare millenaria. Andiamo a mangiare qualcosa, dai, ho fame. Dall'arabo. Ancora, no, nata con, ya, che fa gusto arabo, una cosa, ya. Mangiamo bene. Credo un sushi. Ma che è il pesce così ma fresco? Ma mangiano ma sushi. Mai? Ma che sei una cosa buona. Un kebab. Ancora voglio mangiare una cosa buona, sai, bella, una cosa nostra, una cosa bella di qua. Una cosa nostra bella di qua e Mulignana, Mulignana, Mulignana fuori, Mulignana, una cosa di qua. Di qua, cosa? Da Napoli. Una cosa bassa locale, bassa. Vabbè, allora consiglia tu. Voglio e che ci potessi mangiare? Un piatto di melanzane a fungitiello, le melanzane a funghetto. Melanzane a fungitiello, cioè melanzane con i funghi. No, le melanzane a funghetto. Non quei fungitielli. Lo sai come si fanno le melanzane a funghetto? Io lo so come si fanno le melanzane a funghetto. Allora, tu? Io lo so, ci vuole l'aglio. Aglio. Melanzane. Pomodoro. Basilico. Olio. Se ci vuoi mettere un poco di pepe, ma non per forza. Non per forza. E sale. Ah, e abbiamo fatto questo. Un bel piatto di melanzane a funghetto napoletano. Napoletano. Ah. Bene. Non proprio napoletano. Comunque, ma che vediamo. Siccome non proprio napoletano. Questo è il risultato di una serie di viaggi che hanno fatto questi alimenti. No. Per esempio, vuoi sapere da dove vengono questi alimenti prima di diventare melanzane a fungitiello? Fammi sapere dove vuoi arrivare. arrivai? Bene, e vediamo dove voglio, no, dove voglio arrivare, da dove voglio partire. Perché gli alimenti partono da certi posti. L'aglio, per esempio, viene dal deserto del Kirghizi, no, in Asia centrale. La melanzana ha origini in Cina e in India. Il pomodoro, lo sanno tutti, dal Sud America, no, dal Messico, Perù, dalle Ande. Il basilico nasce in Indonesia. L'olio viene dalla Palestina, dalla Siria, da Creta in particolare. Il pepe dalle coste del Malabar in India. Come vedi, gli alimenti vengono da ovunque e fortunatamente quando circolavano questo tipo di merci, i porti erano aperti. Altrimenti tu e melanzana a fungitiel non le facevi mai. E questo viene da qua, e quello viene da là, e quell'altro viene da là. E noi che ci mettiamo? Non ci mettiamo niente. Noi abbiamo detto che l'ultimo ingrediente era il sale, e in Italia il sale c'è. Ci mettiamo il sale? Sale! Sale, vorrei di sale un erbe, un'altra legge elettorale. Vedo sale da concerto, piene di persone sole. Se ci sono le parole, allora usale, usale. Che fa il sale sulla mia salute, il sale da cucina che sale evitare la pressione, sale la tensione se si sente male il commensale, se ci sono le persone allora usale, usale. For sale, non è un venduto. Not for sale, nella vita c'è chi sale. Chimicarbonato, siamo sale della terra. Sempre sei odato, anni zero come stare. Miniere di sale, vedo ancora processare. Le streghe di sale, la mia rabbia non si può inabissare. Come ingoiare? Sale carico, vedi che risale. Sulla tota versiamo un pacco di sale sano. Esageriamo domani, digiuno salesiano. Gran sete come nel deserto Ramsey. Ne brindiamo finché ribattiamo la secca artesiano. Sulla salaria, sia salaria, aria marcia che sale. Facciamo a piedi le strade, come Gandhi alla marcia dei sale. Esistono le saliere, sono diventati tutti agitatori. Io voglio volare con le canzoni, non mettere salieri sulla coda del mio Fazioni. Con tutto il sale che ho sulla coda divento caustico come la soda. Col poco sale che ho nella capa non ci condisco le cime di rapa. Sono di sale le statue che vedi, talmente basali che dormono in piedi. Ma i sali che perdi sudando stasera posso trovarli scavando in miniera. Sul traliccio per difendere il salario, sa legittimare il gesto come un Cristo nel sudario. Sale lentamente ma sale costantemente la pressione, sale quella fiscale, quella che fa male di sicuro, e ti sale un odio che altro che sodio col suo cloruro. E giuro che se il mio intervento è ancora troppo sciapo non c'è alcun problema, l'ho già fatto e lo farò da capo. E salerò, salerò. Basta capire la salute. Se metti i soldi, basta capire la salute. Sale diversi, salerò, e non porta male. benvenuti, bentornati a Radio Plaza. Radio Plaza. Oggi a Santa Fede Liberata, all'interno di questo bellissimo festival delle cucine in movimento. Com'era? O delle cucine in festival, anche ci piaceva. Il movimento delle cucine in festival, sì. Quello che abbiamo sentito era La guerra del sale di Daniele Silvestri e Caparezza dall'album Acrobati 2016. E piano piano, dopo aver seminato e raccolto, arriviamo al tavolo, quella della turistificazione della città e sviluppo del settore della ristorazione. È tema attuale e soprattutto molto interessante per Napoli in particolare. Sì, si vede un po' in giro in tutte le grandi città, si sta vedendo ora a Napoli. Raffaele, cosa avete detto al tavolo di ieri? Quali sono le proposte, le idee? Benvenuto Raffaele. Ciao Benvenuto. Ragazzi, ben ritrovati. No, ieri abbiamo affrontato una discussione con anche i compagni di Roma, di Bologna e altri di Napoli. Sicuramente già il titolo già ci fa capire la complessità dell'argomento che andiamo ad affrontare. In questa città abbiamo avuto un rapporto che è mutato, è cambiato e è particolare col turismo. Se in un primo momento, oppure spesso anche per tutto il nostro paese, si è parlato di turismo come un vettore per il miglioramento, per la crescita del paese, poi i suoi effetti reali all'interno delle città, quello che sta accadendo, sono ben diversi. Noi lo stiamo vivendo a Napoli, dove ormai anche numericamente, anche fisicamente, siamo una minoranza nei confronti dei turisti. I turisti iniziano a diventare superiori al numero di abitanti reali proprio del territorio. Dico questo perché il processo di turistificazione non è altro che è stato un catalizzatore di un cambiamento del territorio, sia nella sua struttura proprio fisica, quindi proprio la fisicità urbana della metropoli, ma anche il cambiamento con gli con le persone che vivono all'interno del posto. Abbiamo avuto un rapporto col turismo anche da parte dell'amministrazione comunale molto particolare, che io sicuramente non condivido. Il turismo è stato sbandierato più volte come un modello, un modo per migliorare le condizioni di questa città, ma in realtà ha garantito semplicemente un'accumulazione, un profitto costante ai proprietari di ristoranti, bar, alberghi, bed and breakfast e così via. Quindi non ha prodotto benessere diffuso ed è sicuramente e nessuno all'interno dell'amministrazione sta facendo qualcosa per impedire la trasformazione della nostra città. Una trasformazione che si inserisce poi all'interno quindi di due estremi. Uno che potrebbe essere il suo governo e come governare il fenomeno, e dall'altra l'esorcizzazione poi del turista, con le frasi che spesso vediamo scritte sui muri anche nelle altre città europee: tourist go home, turisti andati a casa. Ecco, noi nel nostro tavolo non abbiamo preso in considerazione come soluzione né una né l'altra. Non ci interessa né escludere il turista, che poi è una persona che si sposta nel tempo libero dal suo spazio di residenza in un altro, ed è una cosa che è sempre esistita. Il problema è la gestione neoliberista dei servizi che accompagnano il suo spostamento. Ognuno di noi è turista, esatto, in altre città, in giro per il mondo, no? E allo stesso tempo non crediamo che possa esistere una gestione, diciamo, buona, è uguale, solidale di questo strumento, dei servizi. Quindi la cosa sarebbe riuscire, il termine che più ci ha aiutato nel ragionamento è stato la sottrazione. Riusciamo a sottrarre l'azione e quello che noi facciamo nell'ambito della produzione, della trasformazione di cibo da questo meccanismo? Sì, no. È molto complicato, perché la risposta non la troviamo in una sintesi dialettica, ma ci viene data dalla pratica. Quando abbiamo anche confrontato la pratica che abbiamo tenuto in questi 3 giorni del festival, siamo stati in questo spazio, abbiamo compreso come in alcuni momenti non siamo neanche riusciti a controllare il flusso delle persone, perché le persone qua, i turisti, entrano e escono ormai dappertutto, e quindi ha influito anche sulle nostre pratiche e sulla nostra modalità. In alcuni casi come questo, secondo me, in un ambiente più tranquillo, in un orario di pranzo in cui hai messo 4 cucine, riesci a dare una radicalità e una modalità anche diversa. Quindi il rapporto col turismo rientra poi anche nel rapporto che tu hai con i posti occupati, che si trovano a essere quelli che hanno la responsabilità di cambiare il territorio al di fuori. Ma molto spesso, e l'input ci è stato dato poi per la seconda parte del tavolo, il lavoro nella ristorazione, ci dicevano i compagni di Bologna che troppo spesso i militanti, i compagni, chi sta negli spazi sociali, si trova a dover poi andare a lavorare all'interno di queste nuove fabbriche di sfruttamento, parliamo proprio di ristoranti, bar, bed and breakfast, che alimentano tutto il processo del turismo. Quindi non solo sei escluso dal tuo territorio perché magari sei dovuto andare fuori perché gli affitti erano troppo alti, ma ritorni in città a lavorare, a fare lo schiavo. e quindi alimentare quel processo. Ci siamo resi conto come attualmente su questo piano qua non c'è una forma di aggregazione di lavoro reale, consistente, e anche le azioni che si possono fare, intraprendere tramite i sindacati, come molto spesso vertenze, anch'io le ho fatte da datori di lavoro, ma non risolvono il problema, vanno a finire nei patteggiamenti e negli risarcimenti di danni monetari, ma le attività restano aperte e nessuno può vietargli di chiudere, nonostante a Napoli è risaputo che tutti lavoriamo a nero, nessuno ha contrattualizzato e nessuno ha diritti. Di conseguenza abbiamo, vista la situazione che è abbastanza catastrofica, però abbiamo trovato degli spunti interessanti dalle organizzazioni di lotta che sono state in particolare nel nord Italia, di questa nuova figura di lavoratore, che sono i riders, cioè quelli che consegnano il cibo in bicicletta e lavorano per le piattaforme come Glovo o Just Eat. In nord Italia questo fenomeno è molto più sviluppato, sta arrivando anche qui a Napoli, e nel sud Italia questi lavoratori che non sono stati ancora categorizzati proprio, non hanno proprio una forma, questa forma non l'abbiamo chiamata, e resta ancora il lavoretto, quello che tu puoi fare 2-3 ore e vai a fare le consegne. In realtà poi c'è gente che rischia la vita quando piove e che nevica e che si è organizzata e già sciopera. Quindi abbiamo preso da una parte come spunto sia cercare nuove forme di organizzazione all'interno dei posti di lavoro, e quindi questo è un lavoro politico non indifferente, di lunga prospettiva, e allo stesso modo affinare le nostre pratiche, affrontando anche per esempio la tematica dell'autoreddito. La cosa importante, lo stimolo secondo me che c'è stato di tutto il festival è stata la voglia di rivedersi, la voglia di continuare a discutere, la voglia di continuare a confrontarsi e la voglia di creare pratiche sempre più comuni e sempre più riproducibili. Infatti ci siamo lasciati ieri in plenaria con un appuntamento, ci rivedremo già ad ottobre a Roma per Genuino Clandestino, ci sarà una festa, ci sarà un momento in cui questa rete che mette insieme produttori e trasformatori e prova a creare un filo diretto vedrà anche la nostra partecipazione, ci rincontreremo e continuiamo a seminare ribellioni. Parliamone allora, ancora. Quindi c'è da fare, siamo pronti per farlo ad ottobre, dicevi, ridiamo l'appuntamento di ottobre, sì, così ottobre, da non dimenticarlo. È a ottobre al Forte e probabilmente poi invece la domenica, il sabato al Forte Prenestino e la domenica poi si uscirà in piazza a cucinare. Non sappiamo ancora esattamente. Teneteci aggiornati, fateci sapere, noi possiamo. E poi una chicca probabilmente, proprio una chicca, pronti. Proprio quei fatti, il prossimo festival molto probabilmente Palermo, non lo diciamo, l'hai detto Palermo, no, è Paok di Salonicco. No, ci sente, il pubblico non grazie. C'è, ma ci sentono tutti. Vabbè, ce la facciamo dire e ve la facciamo sapere. Allora, chi sei? Raffaele, ce lo dirai. Lo verremo a sapere, lo verremo a sapere, come sempre si sa a Napoli, come si sa ne cosa a Napoli? Sotto che giunge, certo. Passa parola. Facciamo il palo di sapone. Il prossimo festival è il palo di sapone. Questa si capisce, l'ha detto. Oppure pallonetto. E quindi cos'altro c'è da dire se non What's to Say? Art Ensemble of Chicago, Fanfare for the Warriors 1973. Radio Plaza! sottovoce. Piano piano, rientriamo piano piano da questa atmosfera così. In punta di falafel. Tu l'hai mangiato, io ancora no. Vedremo cosa succederà dopo. Tutti gli ospiti che si sono avvicendati oggi, non tutti ancora perché manca ancora qualcuno, però hanno parlato in fin dei conti di una rivoluzione da attuare o che si sta attuando, no, intorno all'argomento cibo, cucina, agricoltura, commercio e trasformazione del cibo e anche dell'approccio, diciamo così. Vado avanti, va bene. Allora, questa storia del cibo che produce rivoluzioni, beh, non è una storia, storia nuova, vecchia, è storia, beh, è storia ci sono, di sempre. È ci storia sono di sempre. Cose un po' più antiche, cose un po' più recenti, come quella del 9 febbraio del 2016 ad Hong Kong. A Hong Kong. Ad Hong Kong la chiamano già tutti la rivolta delle polpettine di pesce. La decisione della polizia di ripulire il quartiere di Hong Kong dai venditori di strada appunto ha provocato una notte di scontri perché a far scatenare poi la rabbia popolare è stato il pugno duro contro i venditori abusivi di fishball, le famosissime polpettine di pesce di Hong Kong preparate in genere con merluzzo, uova, cipolla, farina e curry. E insomma, ad Hong Kong un gruppo di attivisti locali, gli indigenous, pensano che questo sia stato un movimento per cancellare la cultura locale e quindi si lotta con il cibo, si lotta per mantenere la cultura locale. Quello che dicevamo con Raffaele poco fa, no? Quindi la trasformazione delle città e della cultura anche culinaria delle città. Un altro episodio di rilevanza molto importante fu nel 2011 con l'inizio della primavera araba. Tutti si ricordano le grandi manifestazioni, ma ricordiamo quale fu il motivo scatenante di questa di questo episodio rivoluzionario, diciamo così, no? Allora, c'era un venditore di frutta, un venditore ambulante di frutta di Kasserine, un certo Mohamed Bouazizi, no? Che si vide confiscare la merce dalla polizia, che oltre a questo, diciamo, lo umiliò anche pubblicamente. Questa cosa fece scatenare in lui una grossa, appunto, umiliazione, e per protesta lui si diede fuoco in piazza. Da qui iniziò la rivolta dei gelsomini contro il presidente tunisino Ben Ali, e quindi questo fu l'inizio e il principio di quella rivoluzione, diciamo così, passata alla storia come primavera araba. Ma di rivoluzioni noi ne conosciamo anche qualcuna che ci... No, beh, ce n'è una molto, che proprio sta nella nostra pelle, sta, diciamo, dentro, sta di noi, dentro, no? Dentro di noi. Era quella del pescivendolo. Pescivendolo famosissimo, Tommaso detto Masaniello, che nel 1646 appunto fece la sua protesta contro il governo spagnolo. Poi la storia è lunga, non è questo il momento, perché però poi... anche quella rivoluzione fu diciamo così, fu causata da una impopolarissima gabella, cioè una tassa sulla frutta. E quindi attenzione al cibo. Fate attenzione a chi si occupa di cibo. A chi lo produce, a chi lo raccoglie, a chi lo distribuisce, a chi lo trasforma. Anche e a chi fate lo attenzione mangia, anche a chi lo mangia. Attenzione. Perché anche chi lo mangia è importante. E prima di andare avanti ancora un brano. Siamo all'Unita Tucumana, Daniele Sepe, dall'album Vite Perdite del 1993. Siamo a Napoli e questa è Radio Plaza. Thank you. perché all'ombra è nada más. Peccato perché già sabe de mi largo caminar. Peccato perché già sabe de mi largo caminar. Ma è l'unità tucumana, tamborcito calciaquí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí. Compañera de los gauchos por la senda del Tafí. Perdida la razón, quien sabe vida por donde andaré. Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré, mas quando salga la luna, cantaré, cantaré, amigo human querido, cantaré, cantaré, mas quando salga la luna, cantaré, cantaré, amigo human querido, cantaré. Radio Plaza, dove i pezzi si ascoltano fino all'ultimo secondo. Se no chi vi sente a tutti e due, questa è una cosa interna. C'è gente che addirittura taglia gli assoli di chitarra. Ma come si fa a parlare sulla musica? Però questa è una cosa magari che ce l'ha poi. Non parliamo sulla musica, parliamoci sopra. Siamo arrivati all'ultimo tavolo. Posso parlarti sopra? Parlami sopra. Siamo arrivati all'ultimo tavolo, quello dell'organizzazione delle cucine in movimento tra emergenze e contesti di lotta. Che ridi, questo è un fatto serio. È un fatto serissimo, è un fatto serissimo, però anche le cose serie vanno prese con ironia. Autogestione. Anche le cose serie. Autogestione. E quindi quello dei fagioli ci racconta del tavolo dello specifico. Quello dei fagioli è bello, Gianluca dei fagioli. No, ecco, l'ha detto, non volevo dire il vabbè, nome. Vabbè. Io ho sentito anche un Digos Boy a un certo punto. Digos Boy, no, quello era per la fine. Perché potrebbe essere una password per poter cominciare a parlare di autogestione. Parliamone allora, l'hanno fatto ormai il tuo nome, Gianluca. Parlaci di cosa avete detto al tavolo e cosa, quale proposte sono venute fuori. Allora, questo tavolo, che secondo me è stato ovviamente molto importante come tutti gli altri, importante Gianluca, posso perché... chiederti da dove vieni? Da Padova. Padova, benissimo. Padova, che attenzione, inizio con la P, potrebbe essere... Anche la sede... Anche la candidata per il prossimo anno. Bravo. Però non si sa niente, deve dirsi poi... Dobbiamo ancora indagheremo, non so intanto. Tutto. Si discuteva prima che stiamo in emergenza veramente con le cucine. Questo tavolo... Allora, siamo partiti e abbiamo cercato di partire un po' dalle necessità che ci sono di tutti, sia del... il tavolo era eterogeneo, c'erano non solo le cucine ma anche produttori, e trasformatori e via dicendo. Consumatori, perciò uno che è entrato e dice ah, sono passato di qua, vengo a sentire, quindi non solo, non era così tecnico. Però tra di noi siamo partiti dalle necessità di tutte queste varie entità, diciamo. Per noi come cucine la necessità fondamentale è quella di resistere e ribellarsi a questo sistema di non solo di alimentazione, di come vengono trattati gli alimenti, ma di come vengono trattate le persone, gli esseri umani, che a volte non so, noi a Padova recuperiamo verdura dal mercato agroalimentare. E tante volte mi viene da fare il confronto tra la verdura che viene buttata lì perché ha una macchiolina nera e viene buttata via, con l'essere umano che viene buttato via tra virgolette perché ha una pecca, perché lei non la pensa come il sistema, perché fa cose, dice cose pazze, e quindi è molto legato a questo. E appunto questa necessità come l'affrontiamo? Innanzitutto abbiamo la necessità di organizzarci in tempi, non dico improvvisi, ma saper allestire una cucina in 10 minuti a volte può servire, soprattutto se questa, la cucina che facciamo non rimane solo nei posti dove cuciniamo, facciamo distribuzione, trasformiamo il cibo, ma viene portato fuori nelle strade, nelle piazze, nelle lotte, perché la cucina è uno strumento che serve a tutti i compagni in lotta dall'albore dei tempi, da quando in ogni battaglia, se non sei una cucina che ti fa da mangiare, tu non, puoi essere bravissimo, puoi avere tutte le armi del mondo, ma non resisti un giorno. Quindi è fondamentale essere fuori, essere nelle piazze, legarsi a più contesti di lotta possibili. E questo è stato non solo portato dalle cucine, ma anche appunto dai produttori, dai consumatori che c'erano, dicendo se noi produciamo ma abbiamo bisogno di entrare anche nel contesto politico, perché riconosciamo che quello che si fa, che si cerca, le catene che si cercano di spezzare con queste cucine in movimento, ovviamente prendono anche il fatto che io la verdura non la posso, se la vado a vendere all'ingrosso è uno sfruttamento del mio lavoro, del cibo, il cibo non vale niente quando invece vale tantissimo. Quindi ecco, ci siamo ritrovati su questo, veramente di essere più presenti, ci siamo ripromessi di trovarci più spesso fisicamente, proprio non solo magari una o due volte all'anno, ma riuscire, l'idea era quella di riuscire a fare anche delle chiamate nazionali e ritrovarsi come cucine in movimento, popolari, chiamatela come volete, tutti assieme portando un nostro tema, una nostra direzione, tutti assieme compatti, perché finché siamo isolati nelle nostre città restiamo lì e non... è qui che poi avviene la trasformazione di tutte le idee che abbiamo in testa, e finché ne parliamo tra noi non cambiamo nulla. Quindi veramente cucine veramente in movimento, esatto, no? Migranti anche, migranti, clandestine, briganti, briganti, noi siamo cucina brigante, bisogna essere pure briganti, nel senso che sapersela cavare anche appunto in questi contesti un po' di emergenza, perché non sempre appunto siamo ben voluti, ben visti, e abbiamo, noi personalmente a Padova abbiamo preso multe per avere dato della verdura che beh, non sta in cielo né in terra, poi non abbiamo comunque le istituzioni ci sono contro tutte queste cose qui. Serve quindi organizzarsi, parlare ancora di più e portare a casa risultati, pratiche. Questo è stato un tavolo molto pratico. Questo dicevo è un po' quello che usciva anche dagli altri tavoli, sì. La necessità di stare più insieme, di stare sì, proprio fisicamente anche più volte insieme, di scambiarsi insomma esperienze e opinioni per rendere il movimento più forte, sì, ho capito bene insomma. E anche beh, qui in particolare da questo tavolo è uscita la necessità di sviluppare un percorso che porti anche a un testo magari scritto di come organizzare appunto proprio la cucina, come dicevo prima, cose pratiche, come faccio, sono a 20 miglia e ci sono i migranti, sono appena arrivato con il furgone e non so, io non so niente, ma ho un fornello, come faccio ad attaccare il fornello alla bombola, dove vado a recuperare il cibo, cosa, che piatti posso fare veloci che possono essere distribuiti, che possono andare bene un po' a tutti, e tutte quindi queste cose qui, uno strumento utile da sì, condividere, sì. Ci siamo dati questo impegno di tramite mailing list cose aperte ovviamente a tutti, di creare almeno uno scritto per avere un manifesto, diciamo, di quello che facciamo e di come farlo, avere una pratica comune. Perfetto, questo era un po' il resoconto dall'ultimo tavolo, grazie mille a tutti e quattro i tavoli per i ringraziamenti, però poi insomma ci ritorniamo, andiamo ancora con la musica prima di andare verso la fine della puntata. Musica bella. Musica bella. Musica bella. Che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo Fela Kuti con Sarngawija, Lilias White. Il pezzo è Zombie, dall'album Finding Fela del 2014. Grazie per il caffè e grazie a Gianluca che in questo momento... Quello dei fasoli. Buon ascolto, Radio Plaza. Zombie no go go unless you tell them to go. Zombie no go stop unless you tell them to stop. Stop, stop, stop. Zombie no go turn unless you tell them to turn. Turn him. Zombie no go think unless you tell them to think. Think, think, think. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Yeah. Zombie, oh zombie. Tell them to go straight, jor jar jor. No brain, no job, no sense, jor jar jor. Tell them to go kill, jor jar jor. No brain, no job, no sense, jor jar jor. Go and kill, jor jar jor. Go and die, jor jar jor. Go and quench, jor jar jor. Put them for of us, jor jar jor. Go and quench, jor jar jor. Go and kill, jor jar jor. Go and burn, jor jar jor. Put them for of us, jor jar jor. Go and burn. Go and quench, go and kill, put them for the mass. Go and kill, go and die, go and burn. Oh, da! Attention, quick match, slow match, left hand, right hand, about hand, double up, salute. Open your hat, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready. Quick match, slow match, left hand, right hand, about hand, double up, salute. Open your hat, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready, halt! Some boys stand like this all day on the street corner until the army recruiter sees them and says, order! Attention! Quick match, slow match, left hand, right hand, about hand, double up, salute. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready. Quick match, slow match, left hand, right hand, about hand, double up, salute. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready. Hard! Zombie went out one way, a door to jar a door. Zombie went out one way, a door to jar a door. Ha! Yeah. Aha. Plaza fino all'ultima nota. Fino all'ultima nota e ci stiamo avviando alla fase finale della puntata. Quindi l'ultima nota di questa puntata. Ricordiamo che ci hanno riportato le informazioni dai tavoli Ilaria, Tiziano, Raffaele e Gianluca. Li ringraziamo ovviamente per averci portato le informazioni. Ringraziamo anche Silvana che ci ha raccontato l'esperienza del Giardino Liberato. Quindi qui ringraziamo a anche il Giardino Liberato per aver sostenuto l'organizzazione e ringraziamo anche Santa Fede Liberata per aver ospitato in caso di pioggia, che com'è è il caso, come è stato appunto qui oggi questo mega festival delle cucine autonome. Quindi sta per finire il festival e si ritorna a casa. Raffaele, diciamolo, deve fare poca strada per tornare a casa. Invece Ilaria, Tiziano, Gianluca ne faranno un po' di più. E anche Silvana ne fa di meno. E quindi chiediamo a tutti, però, durante il viaggio di rientro a casa, durante insomma questo post festival, che cosa vi portate da questi tre giorni qui a Napoli? Io sicuramente due cose. La prima è che anche già da ieri, dopo che erano finiti i tavoli di discussione, realizzavo che la comunità che provo a costruire in quello che faccio continua sempre ad allargarsi, e anche questa volta ho avuto l'opportunità di conoscere tante persone con cui ho avuto la possibilità di confrontarmi su teoria e pratica, e so che anche se sono in spazi lontani da me c'è un filo che ci lega e che ci rivedrà sempre a fianco nei momenti di lotta, come anche la cucinata di oggi. E la seconda cosa è che abbiamo mangiato benissimo, cioè, diciamo la verità, sono due giorni che mangiamo senza tregua, che beviamo una birra buonissima, un vino buonissimo, siamo stati davvero alla grande. È allora proprio vero, quello che mangi ti fa stare bene. Ora modo, certo. Perché noi io ho fatto la radio, ma nel frattempo ho mangiato, perché non si può resistere. Ce ne siamo accorti, caro Raffaele, perché questo è il terzo piatto che vediamo con cose diverse all'interno, quindi... Però l'ha offerto, ma sì, ma è rimasto in mano a lui, l'ha offerto, ma è comunque rimasto lì. Invitiamo quindi tutti quanti ad avvicinarsi ai vari banchetti che possono, diciamo, a cui si può accedere a un assaggio, ma anche a un piatto completo. Cibo buono e bravo. Voi volete raccontarci cosa vi portate da questi tre giorni? Di cosa parlerete nel viaggio di ritorno in autobus? Gianluca da Padova. Allora, parleremo... Beh, che tanti fagioli sono buoni. No, tantissimi spunti. Cioè, torneremo con, per quanto mi riguarda, con molti compagni in più. Anche se distanti, ma quella è la distanza. Cioè, siamo qui oggi, quindi possiamo star qui... bene o male, quando vogliamo, lavori anche lì, e cose. Anche lì, no? Possiamo anche... Sì, certo. Abbiamo i contatti, quindi, come dicevo prima, cioè, si può sicuramente trovare di più fisicamente. E tante pratiche... Padova io non la conosco, tu la conosci? Io neanche la conosco, quindi è bella, un'ottima occasione per visitarla. Già. No, ci sta, è bella, c'è il movimento. E niente, poi tante pratiche, soprattutto pratiche che magari noi fino a ieri discutavamo così, dicendo ma dai, no, siamo pazzi, ma figurati se si può fare una roba del genere. Invece qui trovo che già tutti lo fanno, ad esempio l'autoreddito, queste cose qui, e quindi è una gioia dentro di che si può fare, e dobbiamo andare avanti ed siamo nella strada giusta. Perfetto, grazie. Ilaria? Sì, Ilaria da Bologna. Bellissima Bologna, lasciacelo dire. Allora, io sicuramente tornerò a Bologna con il cuore un po' più leggero, perché fa sempre bene ricordarsi che nonostante sia un momento di repressione, quello che stiamo vivendo tutti quanti, molto forte, e che la situazione sembra solo peggiorare man mano che il tempo passa. In ogni caso, ricordarsi che non siamo da soli e che nel resto delle altre città d'Italia ci sono comunque un sacco di esperienze che provano lo stesso, insomma, a fare qualcosa e a far passare tutta una serie di discorsi. E questo sicuramente è stata un'esperienza che mi ha fatto un pochettino prendere il respiro un attimo, e quindi sicuramente ha arricchito molto. E poi tutte le relazioni che abbiamo stretto in questi giorni, e che comunque sia, sicuramente ci rivedremo abbastanza breve, già speriamo subito dopo l'estate di riuscire a fare un momento di ricognizione per il prossimo festival, che si terrà, scusa, non me lo ricordo, me l'hanno detto ancora non è sicuro, dobbiamo provato. Decidere, però sì, ci sono già delle proposte. Intanto Raffaele ha finito il suo piatto. Sì, possiamo pure dire che Ilaria, diciamo, ha superato anche la sua, diciamo, il suo il timore del microfono, diciamo così. È andata bene. Grazie mille. Grazie a voi. Ci manca il viaggio verso Roma. Tiziano. Beh, penso che torneremo con la consapevolezza che c'è una rete nazionale che porta avanti le stesse istanze che stiamo portando avanti a Roma. E condivide le pratiche, i ragionamenti e sicuramente il fatto che avremo la possibilità di confrontarci per continuare a collaborare assieme. Grazie. E dal giardino di Mater Dei? Ritorno a Mater Dei, quindi è facile, sono più vicina. Che cosa mi porto? Allora, mi porto l'entusiasmo di tanti ragazzi. Io sono la più grande di tutti, forse tra i più grandi di tutti. E la cosa che voglio dire è, non si tratta di un'operazione di resistenza, si tratta di un'operazione di attacco, è diverso. Un attacco che non è un attacco frontale, perché non ce ne fotte niente di essere simmetrici. Noi spostiamo su altri piani, e secondo me lo spostare è la linea che ci può portare ad essere tutti quanti un'altra volta vicini, insieme e vincenti. Volevo dare un poco di coraggio, perché quello che si riesce a fare anche con poco e in poco, probabilmente si riesce a fare anche con più e in tanti e in maniera più grande. Secondo me toccare dei punti cardine sui quali si è retto non il sistema di commercio, il sistema capitalistico, che è cosa diversa. E secondo me la produzione, le attività produttive, il reddito, eccetera, secondo me sono dei temi che forse possono essere veramente dei temi che possono andare nella direzione di una rottura di un sistema che sta cedendo. Noi stiamo tutti in depressione perché il sistema sta cedendo e non sappiamo come non tamponare quel sistema. Non sappiamo dove andiamo, ma va benissimo non sapere dove andiamo. Mi piace ancora di più non sapere dove andiamo. Adelante, allora mi verrebbe da dire. Adelante. Adelante, non ce ne fotte proprio. Anticapitalismo è sempre attuale, sempre. Grazie mille a Silvana, grazie mille a Tiziano, a Ilaria, all'uomo dei fagioli e a Raffaele. Gianluca, ovviamente, grazie. Grazie per aver partecipato alla puntata di oggi di Radio Plaza, che non è finita, che non è ancora finita, continua con la musica, continua con due apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo, dalla favola di Adamo ed Eva di Max Gazzè. Questa è Radio Plaza. Frenesia bollente di cibi cotti. strada si riempì di pomodori. Mezzogiorno, estate, la luce si divide in due metà di un pomodoro. Scorre per le strade il succo. In dicembre, senza pausa, il pomodoro invade le cucine. Entra per i pranzi, si siede riposato nelle credenze, tra i bicchieri, le matequilleras, le saliere azzurre. Emana una luce propria, maestà benigna. Dobbiamo purtroppo assassinarlo. Affonda il coltello nella sua polpa vivente. È una rossa viscera, un sole fresco, profondo, inesauribile. Riempie le insalate del Cile. Si sposa allegramente con la chiara cipolla e per festeggiare si lascia cadere l'olio, figlio essenziale dell'ulivo, sui suoi emisferi socchiusi. Si aggiunge il pepe, la sua fragranza, il sale, il suo magnetismo. Sono le nozze del giorno. Il prezzemolo issa la bandiera, le patate bollono vigorosamente. L'arrosto colpisce con il suo aroma la porta. È ora, andiamo! E sopra il tavolo, nel mezzo dell'estate, il pomodoro, astro della terra, stella ricorrente e feconda, ci mostra le sue circonvoluzioni, i suoi canali, l'insigne pienezza e l'abbondanza senza ossa, senza corazza, senza squame né spine. Ci offre il dono del suo colore focoso e la totalità della sua freschezza. Pablo è vivo. Pablo Neruda, Pablo ode al pomodoro. Queste lode al pomodoro così, di Pablo Neruda. Così ci piace chiudere questa puntata di oggi di Radio Plaza. Siamo arrivati veramente alla fine. Siamo alla fine della puntata di Radio Plaza qui al Festival delle Cucine in Movimento. Ringraziamo grazie tutti, per averci invitati. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Chi c'è stato, quelli che hanno parlato, chi ha parlato, quelli che suonano, chi ha cucinato, chi ha bevuto, chi cucina, chi ha mangiato. Chi coltiva. Grazie, grazie per averci invitati. E ce ne andiamo? Ce ne andiamo così. Ce ne andiamo così. Ce ne andiamo con la musica. Ce ne andiamo ce con ne gli andiamo. Applausi, quindi la dice lunga. Ah, però prima di andare via, prima di andare appunto via, dicevo, vi ricordiamo che dopo la radio c'è la Banda Basaglia e poi uno spettacolo. Banda Basaglia che suona? Suona, banda, è una, vabbè, è una banda Basaglia che suona. Sacche di bande, hai ragione. Le bande sono tante. E poi c'è, a seguire ci sarà uno spettacolo teatrale di Rieflevienta in napoletano. Perfetto, e vi ringraziamo ancora, grazie. Ci salutiamo con Kibori, Mahala Rai Banda, da Mahala Rai Banda del 2005. Questa è stata Radio Plaza. De mama ma butlove, butlove da butlove, gana shavo la kere, devla la kere. De mama ma butlove, butlove da butlove, gana shavo la kere, devla la kere. Yo he da de sokara, da de sokara. Prashukar da prashukar, sari lulu gya dai bar, lulu gya dai bar. Siman romi prashukar, prashukar da prashukar, sari lulu gya dai bar, lulu gya dai bar. Yo ida de sokar.